scriverò nel tempo i ricordi della mia gioventù, un'immagine della mente mia. Sogno una metamorfosi di me, una dimensione parallela, ma io vivrò nel tempo se suono nella mia melodia. Sarà nella mente di chi ascolta, perché sono solo un musicante che racconta al mondo la sua storia e musica d'amore. Sono solo un cantastorie che confonde fantasia e realtà nell'improvvisazione. Sono come il vento che la vela spiegherà, un viaggio lirico, le mie verità. Il burattinaio che ogni nota muoverà, nel suono una canzone nuova già sarà. Nell'improvvisazione sono come il vento.